prendevo, no? Il fatto di passare da metterci la faccia e metterci il corpo, metterci tutto se stessi per, diciamo, la conquista, per la rivendicazione, e invece delegare qualcuno per tutto questo, perché quella delega poi, oltre alle tante storture che ha prodotto, è stato anche un nostro grosso indebolimento, perché rammollimento, ecco, forse il termine è proprio questo, perché evidentemente poi col tempo abbiamo perso la capacità di metterci la faccia, di metterci noi stessi e di rimboccarci le maniche. Anzi, non lo si è proprio più preso in considerazione come movimento, e questo io ce l'ho avuto chiaro quando sono cominciati diciamo gli attacchi sistematici da parte del Vaticano, perché insomma sono attacchi tutte le fuoriuscite, e dico strano come una categoria di persone, quindi gay, lesbiche e trans, a tutto questo non reagisce, cioè resta ferma, impassibile, e invece nessun gruppo, categoria al mondo, nella storia, di fronte a questi attacchi, a queste sottrazioni, non ha risposto. Cioè, da che mondo è mondo, la storia ci insegna che quando ci sta un, diciamo, un sollecito, c'è una risposta. E qui invece c'era un sollecito forte, marcato, chiaro, evidente, e non c'è stata nessuna risposta. Tentativo di risposta, forse il Pride 2007, milione in piazza, i Novat organizzati da noi, ma tappati da ogni dove, e, però ecco, lo stupore sulla non risposta continua ad esserci. Io vorrei aggiungere una cosa però a quello che ha detto Porpora. C'è un motivo per cui sembra che non ci sia una risposta, ed è una strategia dall'altra parte, a mio parere. Cioè, è esattamente quello che era successo rispetto al movimento degli anni 60-70, che di fatto è stato cancellato dalla memoria, no? Era quel pezzo che leggevo prima, dove in questo caso veniva definita una reazione del capitale. Però credo che ora potremmo denominarlo in altra maniera, cioè di una società eteropatriarcale, violenta, eccetera. E quello che è successo rispetto a Ratzinger è la stessa identica cosa che era successo a Verona, perché di fronte a quello che stava avvenendo sarebbe passato esattamente tutto sotto silenzio se non ci fosse state sette persone disperate che in qualche modo cercavano di farlo uscire di lì. Perché per noi l'obiettivo era farlo uscire da Verona, che era come se fosse coperta da una cappa dove poteva anche essere scritto sull'Arena. Ma tanto l'Arena è uno dei giornali italiani, di quotidiani italiani a massima tiratura. Peccato che venga letta soltanto nella provincia veronese. Per cui rimaneva tutto lì dentro e anche la lettura veniva data da lì. E quindi anche le forze che in teoria avrebbero dovuto contrapporsi se la rifacevano con noi, perché ci denominavano gli ultraminoritari. Cioè, vale a dire che per difendere gay, lesbiche e trans, perché poi lì cominciò a comparire anche questo il concetto dell'autodeterminazione, quindi a poter rientrare anche altri gruppi come quello delle trans, di fronte a questo sembrava che noi gli si rovinasse la rivoluzione. Perché loro stavano facendo la vera rivoluzione riformista e noi invece che ci piccavamo per queste cose da nulla, che in fin di conti riguardavano sette persone, eravamo gli ultraminoritari che gli rovinavano tutto. Grazie, scusate, lo diciamo cosa era successo a Verona? Io non magari lo so, forse sì. Se si sa. L'ha accennato Elena. C'è qualcuno che non lo sa, non ne ha mai sentito parlare. Allora, molto brevemente, nel 1994 andò al governo Berlusconi in Italia, a Verona andò al governo la destra, fatta al tempo da Forza Italia, AN, e la Lega e l'UDC, quello che poi divenne l'UDC. Che si chiamava un altro nome? Non me lo ricordo. No, non c'era più. Si chiamava CDU. CDU, sì, si chiamava. No, si chiamava ancora Partito Popolare, il Buttiglione non si era ancora veramente ancora. Vabbè, questo pezzo di DC, che poi sarebbe, si sarebbe evoluta come sappiamo, ma mentre il governo a livello centrale crollò, Verona è resistette, anzi c'era N dentro, e fra l'altro in numero molto alto. Una delle cose che fecero fu quello di fare un documento sulla famiglia. Questo documento sulla famiglia conteneva le peggio cose, cioè vale a dire la famiglia centrale, le cose del Vaticano sostanzialmente, i discorsi erano quelli che poi avrebbe fatto Ratzinger esattamente 10 anni dopo. Da questo documento partì anche una mozione, perché l'anno prima, nel 94, era stata approvata la risoluzione per le pari opportunità delle persone omosessuali al Parlamento europeo, quella proposta dalla Claudia Roth, che fu presente a Roma al primo Pride, che era del 94, e che fu scomunicata per questo, per essere stata quella che ha presentato. Evidentemente era di origine cattolica, era tedesca dei Verdi. Allora Verona si sentì in dovere di rifiutare questo documento. Quindi fecero questa mozione, che era orripilante nei contenuti, dove dicevano che l'omosessualità era contro natura, che il comune di Verona si impegnava a non riconoscere nessun beneficio per le coppie. Esatto, cioè, ma la cosa centrale era proprio, da un lato la dicitura l'omosessualità è contro natura, c'era la rivendicazione del concetto di diritto naturale, e quindi era orripilante per quei tempi. Ora lo sarebbe meno, perché sono passati quei concetti, ma nel 1995 era pressoché inammissibile. Per discutere di questa, da marzo andarono avanti a dibattere fino a luglio. Noi si andava in questo gruppino di una decina di persone a tutte le sedute del Consiglio Comunale, che si svolgeva il giovedì pomeriggio dalle 3 a finire a notte inoltrata, dove nel corso delle settimane se ne sentirono di tutto e di più. Una delle frasi famose fu quella di un leghista, che fra l'altro portava il mio stesso cognome ed era mio parente alla lontana, ma molto alla lontana. Manco tanto, il subabbo era un cugino del mio nonno, quindi neanche tantissimo, ecco, tale Romano Bertozzo, leghista, esatto, il quale intervenne durante questa seduta per dire che, vabbè, parte i discorsi sulle IDS che impollinano la gente, i gay, poi le lesbiche nella sua testa, chissà, ma soprattutto, insomma, se vogliono questi diritti, e diamogli questi diritti, ma che loro ci diano i nostri attributi, i loro attributi, quindi castriamoli come i capponi, in Consiglio Comunale questa frase, cioè con tutti che stavano zitti. Infatti lo striscione d'apertura grosso della manifestazione era non capponi, era il gruppo anarchico, le capi nei capponi, cioè. Poi un altro discorso orripilante, a cui io proprio non ho saputo star zitta, a un certo punto interviene il consigliere tale, il consigliere Bottoli, che oggi è il, come si chiama, il difensore civico della regione Veneto, Bottoli AN, il quale disse, me lo ricordo a mente certe cose, insomma, alle donne non si potevano dare in altra maniera questi diritti, perché le donne prima aprono le gambe e poi rivendicano l'aborto. Non è il caso che le donne ritornino a quello che è il loro ruolo naturale, che è quello di tutti gli animali? Cioè, io a quel punto, perché era fatto, cioè, io dissi, ora ci dai anche degli animali, gli dai qualcosa. Ma era come la balconata, perché stavamo sopra. Sì, c'era sta balconata. A quel punto il presidente del consiglio comunale interruppe il consiglio, perché dovevano venire i vigili a portarli fuori. Ah, che me ne andai da me, ho detto. Cioè, quindi andò avanti così per mesi. E sinceramente non usciva quasi nulla da Verona, finché non andarono a votare sta mozione. Noi sinceramente si era convinti che non avessero, cioè, a parte quelli di AN, Ma tipo quello della Lega, uno della Lega ci passò anche tutta la documentazione e le registrazioni del Consiglio Comunale, quindi non era così schierato a partito. Dai, non può passare una cosa che dice questo dopo un dibattito del genere, perché votare sì a quella mozione è quasi come votare sì alla castrazione ancora un po'. Invece no, praticamente il PD si astenne. Esatto. E quando noi dalla balconata si protestò, la prima cosa che fece il capogruppo del PD fu venire da me, prendermi per la collottola, alzarmi di peso e dire: e smettila tu ultraminoritaria di merda, e mi mise giù. Cioè, quindi questo era il clima, e di fronte a questo clima non usciva nulla, non c'era verso di coinvolgere nessuno, neanche l'Arcigay stesso, di cui il Pink faceva parte. Lei era in segreteria nazionale dell'Arcigay, io non più, io mi ero dimessa l'anno prima, però comunque nulla, perché non bisognava provocare troppo, che era, si ostentava. E di fronte a quello noi dopo la votazione si occupò la strada pensando se ne accorgerà qualcuno. Dopo 5 minuti arrivarono 5 macchine dei carabinieri e ci portarono via a peso, cioè, però non succedeva niente. Appunto, poi successe che Elena telefonò a Grindini per dire: ma almeno ora che ci hanno messi dentro lo facciamo un comunicato stampa. No. E quindi da lì nacque, ecco, questa era la vicenda di Verona, che credo che per il Pink, cioè quello che oggi il Pink, di fatto è stato un atto fondativo. Cioè Gianni al tempo era vicepresidente del Pink, attualmente presidente, ma lui era arrivato all'Arcigay da un paio d'anni ed era un discotecaro Gianni quando arrivò nel 93 all'Arcigay. Cioè, dopo quella vicenda è diventato un'altra persona, cioè credo che ci abbia proprio fatti crescere politicamente quel gruppino. Cioè, ci siamo trovati che quella cosa che magari per me era stato il mio vissuto mancato degli anni 60 e 70, perché non ero ancora visibile come lesbica, perché erano altri tempi, ritornò. E io ricordo un bell'articolo, perché dopo alla fine uscì, Botto gli andò da Costanzo, e non ne uscirono neanche tanto bene loro alla fin fine, ovviamente non cambiò nulla, ma per esempio, tanto per riportare le memorie storiche, che alla fine anche l'Arcigay aderì, anzi in certe occasioni rivendicò come organizzata dall'Arcigay quella manifestazione, fino all'ultimo non la voleva, non bisognava fare la manifestazione, ma non solo, la proposta era quella, io me lo ricordo bene, perché lei si andò in vacanza una settimana, perché fra l'altro il tutto, l'arresto, cioè il fermo, successe il 14 luglio. E fra l'altro questo 14 luglio, poi noi si andò in vacanza una settimana, si tornò, nel frattempo avevano fatto una riunione a Verona per fare questa mitica manifestazione, che non doveva essere gay e lesbica, doveva essere una manifestazione contro... cosa avevano inventato, contro il razzismo, qualcosa del genere, non me lo ricordo, ma non doveva comparire, perché sennò era la manifestazione degli ultraminoritari. Io mi ricordo che noi ci si incavolò con le varie realtà che c'erano o non c'erano, vabbè, la si fa noi, si fa il comitato, alziamo la testa, e si cominciò, si passò l'estate a girare, a mattina comprava il manifesto, c'erano le pagine, la pagina del Triveneto, si guardava le iniziative, si telefonava, si raccontava tutta la storia, cioè possiamo venire a fare un banchino. Si organizzò così la manifestazione e 5.000 persone, Verona la sconvolse culturalmente, perché la manifestazione più grossa che si ricordavano loro, i veronesi, era una manifestazione di 800 persone che c'era stato sul finire degli anni 70. Poi a Verona non c'erano mai più state manifestazioni, oppure c'erano stati i sit-in, queste cose qua. E chiaramente cambiò la nostra percezione, ed è un po' quella cosa che ho cercato di riprodurre leggendola prima, no? Però quello per noi è, credo, no, per dire, che abbia cambiato. Per dire una cosa, perché qua dentro mi viene in mente, perché poi le pressioni da parte di un vecchio movimento LGBT su quella manifestazione arrivarono fino all'ultimo secondo, fino a quando andavamo sul palco a parlare. Una delle lotte che ci può fare con Coltelli fu per far parlare Vladimir, perché Vladimir non doveva parlare perché era travestito. Cioè fu, mi ricordo, che ci toccava scappare da quelle stesse, gente ci rincorreva perché Vladimir non doveva parlare da quel palco. Sì. E mentre non si voleva parlare tutti quelli che avevano costruito noi anche da lontano questa manifestazione, insomma, non ci trovavamo niente di sconvolgente a far parlare Vladimir, insomma, non. Se posso dire una cosa in tutto questo, un pezzo che non ci raccontiamo mai perché è un, oddio, che non, diciamo che non è usuale raccontarsi, è che in tutto questo percorso che raccontava prima Porpora c'è un pezzo che è quello del fallimento di, invece di un processo, di un percorso che negli anni 90, cioè sul fine degli anni 80 e gli anni 90 voleva mettere assieme dei tasselli, ma voleva mettere insieme alcuni tasselli che venivano di qua e alcuni tasselli che venivano di là. Cioè il percorso che tutti rappresentano semplicemente come il New Labour inglese, con l'idea che la finanziarizzazione dei mercati poteva corrispondere anche a un investimento sui diritti. E quindi quel modello di sinistra moderata che voleva rappresentare un capitalismo che poteva essere buono, è fallito miseramente. Cioè, lo vediamo da ieri in cui il PD non è davvero riuscito nemmeno su una questione così semplice a prendere una posizione. Esiste, e questo è un problema anche per il movimento, non solo le persone che si rappresentano come di centrodestra dentro il movimento, che per me sono talmente oggettivamente minoritarie che non possono andare da nessuna parte, se non nel Roma Pride 2010, che era la roba di quattro poveracci, oggettivamente non hanno spazio. Secondo me il vero problema a oggi è ragionare con tutto un pezzo che pretende di mettere a sistema a modo suo alcuni tasselli e che oggettivamente è un percorso fallimentare, che è un po' anche il percorso, e l'abbiamo criticato tutti nel 2007, quello che portava un livello di concertazione rispetto ai Pax. Signori, quando noi dicevamo, se noi apriamo un tavolo di concertazione e partiamo dicendo che il movimento è pronto a una concertazione sui propri diritti e quindi al Pax, perché questo era, dicevamo, signori, se voi giocate a ribasso perdete, ok? Perché il problema non sta se porti a casa il matrimonio gay o il Pax, ma sta nel riconoscerti o non riconoscerti. Ci possiamo dire amaramente che avevamo ragione. Per cui, secondo me, un altro pezzo da dover discutere non è solo i froci di centrodestra, che a me fanno davvero poco paura, nel senso, quando Liari fa la sua sparata, capito, rimane là, cioè può anche scrivere dei libri agghiaccianti e buttare tanta carta, e io dico sempre che il suo problema è ecologico nell'ammazzare un sacco di libri, ma non lo segue oggettivamente nessuno. Il problema è con tutto un pezzo moderato, non rende il termine, tutto un pezzo che pensa a un'idea di capitalismo buono, possibile, che oggettivamente non sta nelle cose e che pensa quindi in realtà anche, e ce lo diciamo, quel modello di omosessualità che è uscito fuori in tutto l'arco del 2000 e che oggi comincia a vacillare anche rispetto a uno scenario musicale, culturale, di immaginario, è quel modello invece. Mentre Dio, Patria, Famiglia sono il modello, i valori della destra, il valore del capitalismo è uno, è solo, è chiaro, è il profitto. E c'era un modello di omosessualità piegata al profitto che ha fatto un exploit nello scorso decennio, che poi era anche quello che è uscito anche attraverso internet, perché fra l'altro, oltre alla questione dell'AIDS degli anni 80, secondo me l'altro passaggio importante per la comunità è stato oggettivamente internet, è stato un passaggio che ha aiutato un'intera generazione a uscire fuori e che segna una differenza generazionale fra chi si è fatto il coming out prima di internet e chi l'ha fatto dopo. Secondo me noi dobbiamo ragionare anche di questo, dobbiamo dire, signori, c'è una strada che era quella della concertazione dei diritti delle persone LGBT rispetto a un percorso in cui qualcun altro univa le tessere, che è fallita ieri a Mirafiori con quel voto, per cui a oggi non è vero che si possono conciliare capitale e lavoro, non è più possibile, e non è più possibile pensare a una concertazione rispetto a queste tematiche. Però da questo, signori, cioè il fallimento degli altri non è la nostra vittoria, ovvero se da una parte è vero che quel livello là è fallito, dall'altra è vero che non esiste un modello alternativo che possa rivendicare di aver portato a casa delle cose dopo gli anni 70. E questo è il problema che mi pongo io, cioè è il problema di dire, per me il Partito Democratico muore, però se il Partito Democratico muore, lo sto tagliando con l'accetta, è evidente che non è così banale la questione, se il Partito Democratico muore, quali sono le mie prospettive, perché quello è, non è che morto il Partito Democratico possiamo fare la rivoluzione, no, morto il Partito Democratico rimarrà un ennesimo vuoto che ancora noi non siamo in grado di riempire, perché se fossimo in grado di riempirlo avremmo già fatto, perché quelli aspettano solo di essere ammazzati, nel senso che non ci vuole molto di più. Questo è secondo me uno dei problemi che, e l'ho visto anche nel movimento studentesco, cioè una roba, chi c'era quest'anno l'ha visto, una roba problematica oggi è che tu avevi le piazze piene, piene di gente, ma non ce le avevi nelle assemblee, cioè il livello di partecipazione e di delega oggi sta cambiando, per cui la gente non vuole più parlare di delega, ma non vuole più nemmeno, non ha più nemmeno la coscienza dell'impegno dentro le assemblee dell'elaborazione, esiste solo la rabbia, è quella che c'era nelle banlieue 2 anni fa in Francia, per cui, e questo invece era una cosa che mi ha rincuorato nel sentirlo, è vero che dalle contraddizioni può nascere qualcosa, perché se tu prendi il movimento di quest'anno è un movimento che una settimana prima mette a ferro a fuoco la città e la settimana dopo incontra Napolitano, per cui tu dici, cioè, lo stesso movimento che si vuole rappresentare come unico e continuativo, una settimana brucia le camionette della polizia con la folla, capito, è uno che si è fregato perfino lo stereo della macchina della polizia, e la settimana dopo va a incontrare Napolitano. Tu te lo fai qualche domanda su il senso che stai mettendo a costruire? E secondo me noi abbiamo un sacco da macinare, perché non è vero che la morte del tuo nemico significa la tua vittoria, e secondo me dovremmo cominciare a ragionare anche del fatto che non è solo il movimento GLBT di centrodestra, cioè io lo vedo come ridicolo, cioè non esiste proprio nelle cose. Però Filippo, sai cosa era la mia riflessione? Cioè, facendo un po' il brigatista della situazione, non voglio essere brigatista. Io ho detto che 10 anni fa, 20 anni fa era impensabile che all'interno di un percorso di lotte, di rivendicazione, diciamo di movimento, un gay, una lesbica, una trans, un trans si dicessero di destra, perché non apparteneva proprio ho usato la questione matematica, non apparteneva a quel percorso. In un processo di trasformazione lenta ma profonda è cambiata la realtà, ma sono cambiate anche le parole. Perché, mi chiedo, l'anno scorso c'è stato uno scippo di un Pride, ma per scippo io non intendo solo il Pride quella giornata, di un'esperienza, di un percorso, che io dico tu te la puoi fare la manifestazione, sei liberissimo di fartela, ma te la fai un altro giorno, non il 28 giugno, che in quel contenitore c'è gente che 10 anni fa non c'erano, l'anno scorso erano 500, 1000, ma tra 5 anni può darsi che quelli saranno 10.000, ci avranno cancellato completamente, che ti dicono, e l'ultimo articolo, io lo volevo stampare, ma dopo magari se mi collego ve lo stampo e ve lo faccio vedere, l'ultimo attacco che c'è stato è stato rivolto al MIT, è di 4 giorni fa, da parte della Lega Nord, sul resto del Carlino, in cui diceva sostanzialmente i soldi pubblici della regione Emilia-Romagna vengono dati a un consultorio gestito da un'associazione, quando invece ci sono altri problemi, la solita retorica a cui non rispondiamo più. Il problema non è stato quello, il problema è stato di tale Alessandra Vernaroli, non so se avete presente chi è quella che si è operata e che voleva restare sposata con la moglie, suscitò tutta quella polemica l'anno scorso. Questa ha rincarato la dose su la voce, come si chiama, il Gazzettino di Modena e Reggio, e ve lo faccio leggere, dicendo: sono d'accordo, non sono d'accordo sui toni con la Lega, ma nella sostanza sì. Perché un'associazione antagonista, e qui vediamo pure il cambio poi dei nomi e del senso e del significato dei nomi, non capisco perché debba gestire un servizio pubblico. Allora io mi chiedo intanto che significa antagonismo e di come, cioè da cosa gli è venuto, perché noi non chiediamo né una tessera di partito, né imponiamo una linea, né, è un consultorio pubblico e in tale, come tale lo gestiamo. Anzi, mi verrebbe da chiedere da cosa ti viene che io non posso gestire un consultorio, visto che poi l'abbiamo costruito in 30 anni, no? Questo pure bisognerebbe dire. Ma lì va giù duro, su tutta una serie di cose. Allora, questi sono gli stessi attacchi che ha lanciato la Bruce Draghi, che ha lanciato la Mirella Hitchcock, che hanno lanciato tutte queste, parlo solo dell'ambito trans. Allora mi chiedo come sta cambiando questa realtà e come queste parole incidono sulla realtà. Lo sfasciamento di tutto il sistema di welfare a cui tu fai riferimento molto spesso, lo sfasciamento di tutto quello che è il servizio pubblico, è stato chiaro di quanto è importante il servizio pubblico per le persone transessuali, è sistematico e violento, ma non da parte delle politiche alte che il nome la parola non la nominano più, è dai loro cani da guardia. E questa è la questione di gente che si è fatta inconsapevolmente, credo, testimone e riproduttrice di quella politica, perché quella politica non nomina più gay, lesbiche e trans, le nominano i Luchi Amato, le nominano gli Oliari, li nominano le Francesche Busdraghi quando mi attaccano, capito? E questo allora io su questo voglio fare la riflessione, perché se noi continuiamo a dire ma sono quattro mentegatti, no, non sono quattro mentegatti, sono quattro mentegatti che non hanno un cazzo da fare dalla mattina alla sera e usano il loro tempo sistematicamente ad attaccare e sfasciare esperienze consolidate di movimento. Questo stanno facendo. Sfascio queer è un'esperienza di genere e Sfascio queer ha prodotto il Pride 2010 scippandolo a un percorso, cioè questo, e questo deve essere chiaro. Se non è chiaro questo, come si fa? Camminiamo così a tentoni, cioè questo deve essere nero su bianco ed è nostra responsabilità metterlo nero su bianco, perché tanto loro non ci pensano proprio. Anzi, cioè loro continuano, però questa operazione di sfascio e i cani da guardia sono stati sempre funzionali al sistema. Il sistema non, è come gli sfruttatori delle prostitute in strada, quelli non si vedono mai, però usano altre donne per controllare le donne stesse, capito? Si autocontrollano tra di loro. È la stessa cosa, è la stessa logica. Però, Porpora, la cosa che vi faccio come domanda personale, prima che, cioè, e poi la metto perché nei discorsi va affrontata, è io come rispondo alla chiamato che mi rompe i coglioni o Oliari di turno, ok? Perché aver rotto i coglioni dalla chiamato è tanto quasi un complimento, nel senso sei talmente un cesso che se ti sto sui coglioni tanto meglio. Il problema è che io devo rispondere con una proposta politica che risulti all'interno della comunità e del movimento e nei confronti del resto della politica migliore della tua. Ora, siccome avere una proposta politica migliore di la chiamato non ci vuole molto, ok, ma bisogna metterla in campo, secondo me, e sono contento che abbiamo fatto questa due giorni, noi dobbiamo mettere in campo non solo l'Europride di quest'anno, ma dobbiamo cominciare a ricostruire una proposta, un percorso che, come si dice, che possa arrivare alle persone GLBT e dire cazzo, c'è un pezzo del movimento che pone un percorso che è credibile dal punto di vista politico e che può portare a casa risultati. Una delle altre cose che la gente si domandava, perché quest'anno e non anni scorsi è esploso il movimento studentesco proprio nel momento di maggiore difficoltà del centrodestra? Perché solo quest'anno era credibile poter portare a casa risultati. Ora, secondo me è questo il piano con cui noi ci dobbiamo confrontare con la destra, è dire signori, non solo io ti squalifico perché tu sei di destra, io ti squalifico perché la tua proposta politica, che è agghiacciante, primo, e secondo, è quell'altra cosa che dobbiamo dire, quando io ti dicevo che, e questo però non alla destra ma alla sinistra moderata, quando io ti dicevo che il tuo piano della concertazione era una via sbagliata, ci avevo ragione e sono le tue le responsabilità politiche. Io non lo pongo su un piano generazionale, quanto su un piano politico questo. Cioè noi dobbiamo rispondere, cioè alla chiamato secondo me non conviene rispondere, ma o a Oliari, qua, cioè oltre a buttare alberi. Io sono una cosa sola per chiudere, ma la questione tu dici è sulla proposta. Per quanto mi riguarda, uso proprio la questione personale e MIT che rappresento, cioè il MIT ha costruito in 30 anni dei servizi, cioè questa è la questione che io voglio mettere sul piatto della bilancia. Cioè quando io vengo attaccata da qualsiasi persona tu mi devi dire cosa offri, cioè proprio e siccome il MIT ha un consultorio, l'unica associazione, lo ripeto, ad averci un consultorio riconosciuto, capisci? Perché poi su questo ne parleremo magari poi nelle altre sessioni, cioè riconosciuto, uno sportello lavoro, tre case alloggio per emergenza abitativa più una per percorsi di sfruttamento, cioè servizio legale, cioè queste sono secondo me le questioni che io pongo, queste sono le questioni che cambiano la qualità della vita delle persone transessuali. Allora che io poi vengo attaccata, ma su quei servizi, capisce, questa è la questione, non vengo attaccata su, vengo attaccata sui servizi che offro, che abbiamo costruito e che sono patrimonio comune. E quella la pericolosità, non so se è chiaro. È chiaro che non c'hanno niente, c'hanno un vuoto che se li mangia, ma se li mangiasse veramente. Però io vengo attaccata su cose che ho costruito. L'attacco al consultorio significa l'attacco a un'esperienza che a mio avviso è di un certo tipo e la rivendico, l'esperienza dei consultori, è la medicina riportata al basso. E non è da poco, è quella la... Ricordo a questo percorso, secondo me l'anno scorso è stato un passaggio importante, nel senso che non sottovaluterei troppo il fatto che sicuramente loro sono nel vuoto, sono sicuramente deboli, dopodiché tutto quello che diciamo qua secondo me esiste e noi dobbiamo farci conto, nel senso che l'anno scorso di fatto non abbiamo costruito il Pride, ok? Pochi, deboli, di destra, però è successo. Per cui secondo me dall'anno scorso c'è stato un passaggio, no? Che nella storia del movimento, secondo me, della comunità, della scena LGBT, eccetera, è un passaggio importante. Da quel passaggio non a caso noi ci siamo resi conto, secondo me, di essere deboli altrettanto, nel senso che per quanto riguarda l'anno scorso noi ci siamo trovati in una condizione per cui non eravamo in grado di essere tra noi in relazione abbastanza forti per riuscire a dire no, il Pride è della scena LGBT, è della comunità LGBT, voi non siete niente e quindi lo facciamo noi, ok? Per cui da lì, secondo me, è ripartito un livello di ricostruzione in qualche modo e di ricostruzione che ci siamo resi conto che in qualche modo c'era bisogno di ricominciare a parlare anche di politica, per cui io devo anche avere la capacità di analizzare quello che sta succedendo e che è successo, perché è vero che c'è uno spostamento anche di significato delle parole, perché se all'interno del movimento è utilizzata antagonista come un insulto, ok? Allora io devo dire, fermi un attimo, da dove vengo, chi sono, perché questi due giorni tendenzialmente era molto importante che cominciasse con la storia del movimento LGBT, da chi siamo, cioè nel senso appunto da dove veniamo, quali sono le parole che io mi rivendico, perché ci sono delle cose che io mi devo riprendere e la capacità di azione secondo me è una di quelle cose che mi devo riprendere, la capacità però di riempire di sostanza, perché se noi facciamo un'analisi appunto che è un po' più ampia, che non è solo sul movimento ma è all'interno delle fasi politiche, storiche, è evidente che gli anni 60 e 70, cioè che tutte le fasi hanno avuto un contesto politico, dei governi, che oggi la sinistra non c'è, è già morta, è già vuota, è già, cioè nel senso, non so come dire, e secondo me a tema, nella misura in cui sono in grado di ricostruire un discorso politico tra noi in primis, che quindi c'entra sulle questioni sostanziali verso cui voglio andare, per cui questa giornata potrebbe, cioè queste due giornate per esempio, probabilmente sembrano pure un po' pesanti, non so come dire, perché c'entrano e provano a iniziare a ridiscutere su delle questioni che sono molto importanti, molto faticose. E sicuramente secondo me all'interno ci deve essere un'autocritica sia nostra ma sia di fase sul fatto che è evidente che in questo paese le organizzazioni politiche, i partiti, assolutamente inadeguati, ma anche noi come movimento siamo assolutamente inadeguati, ok? Per cui non è che è per quello che in qualche modo uno ricomincia, cioè da dove si ricomincia? Cioè nel senso che ci facciamo, nel senso con tutta la storia che ci abbiamo, tutta la ricchezza che secondo me in qualche modo nel tempo si è andata anche un po', no? Appunto, è rimasta un po' sottosuolo, tra virgolette, per cui è rimasta all'attivismo e all'attività di persone consapevoli che con molta fatica hanno dovuto lottare in qualche modo nei loro percorsi territoriali, con uno slittamento verso l'istituzionalizzazione in qualche modo, comunque le organizzazioni che in qualche modo hanno troppo concertato, sicuramente, però oggi secondo me dobbiamo essere in grado di fare un bilancio in qualche modo e ripartire, riprenderci delle cose che vengono da, anche da più lontano, no? Dalle nostre origini in qualche modo, e che in qualche modo ci permettano, secondo me, di ricostruire attraverso il percorso dell'Europride, perché secondo me quest'anno è importante per questo, non perché noi iniziamo un percorso e costruiamo l'Europride più bello del mondo. Per quanto mi riguarda, io spero che è iniziato un percorso che dopo l'Europride sia stato in grado di ricostruire degli strumenti, dei luoghi, degli spazi, un'analisi politica, perché io devo essere in grado di riuscire a dire di contrapporre in qualche modo, ma non perché gli voglio dare importanza. Era ovvio a tutti quando all'Assemblea Nazionale qualcuno si è autoproclamato continuamente Roma Pride 2012, era ovvio a tutti che è ridicola sta cosa, fa ridere, è grave, sto dando la zappa sui piedi, però attenzione, cioè nel senso, ci sono secondo me luoghi, persone e quelli che non vanno sottolineati nella misura in cui voglio reinserirle in un'analisi, in un contesto in cui devo essere in grado di poterli delegittimare completamente, ma in un'analisi della politica, non perché poi li caccia a peso all'Assemblea. Posso dire una cosa? Io credo. Aspetta. Non avevo visto chi c'era. Anto, grazie. Rossano. Cesare, Anto, grazie. Rossano, Cesare. No, in realtà per una cosa della Pertinisa, nel senso che io penso che sono d'accordo con te, che partire da un po' il discorso che faceva Filippo su deve essere sinistra, in realtà non permette di capire un po' quello che è il dibattito oggi. Nel senso, anche da un lato la capacità, proprio diceva anche il suo intervento, del capitalismo di sussumere completamente delle rivendicazioni, delle opzioni, quindi anche di utilizzarle, seppur con delle, cioè, anche con il modo contraddittorio, però comunque di utilizzarle. E ne penso che, cioè, nel senso, rischiamo appunto anche, perché effettivamente in Italia che sono le tue relazioni dei personaggi in sé, dici, vabbè, un po' credibile e tutto. Però se leggiamo anche un contesto un po' più mondiale, anche di destra, che si fa portare, dice poi di rivendicazioni sui diritti individuali di un certo tipo, diciamo, cioè, sta prendendo anche, facendo anche molta presa. Io penso che il punto non è anche quindi il discorso su il problema è la sinistra che non fa la sinistra, il problema è che sinistra abbiamo avuto anche in questi anni, nel senso, da un lato una sinistra che si appropriava completamente i movimenti, cioè nel senso li faceva propri e si faceva rivendicare, cioè nel senso portavoce dei movimenti, e quindi non neanche facilitava appunto quello che deve essere, diciamo, i processi di auto-organizzazione a cui faceva un riferimento Graziella nel suo intervento, quindi anche di autonomia stessa dei movimenti che decidono in modo democratico le loro proposte, cosa anche i loro obiettivi. Dall'altro lato anche l'idea appunto, Elisa lo diceva, cioè nel senso di una politica che coincide con quella istituzionale, cioè la politica finalizzata a, diciamo, come se la politica sia semplicemente andare al voto, dover rappresentare le istanze di qualcuno, anche qui, e questo ha favorito secondo me anche appunto il processo di delega. Poi c'è, cioè, nel senso, l'avete completamente eliminato la parola conflitto, cioè il punto appunto è quello, è la questione, cioè nel senso, e quindi anche là i movimenti di liberazione che casomai appunto si sono sviluppati in una fase in cui si poneva la questione di fare la rivoluzione, di cambiare completamente un sistema, ed era quella, diciamo, un po' le corde dei ragionamenti e dei movimenti che si sono sviluppati, che sono stati completamente cancellati, questo è stato completamente cancellato, cioè l'idea di poter trasformare un sistema e di come lo trasformi e di come lo trasformi. E dall'altro lato anche l'idea, cioè nel senso di chi ha, cioè a chi fai riferimento. Cioè, se è evidente che consideri il problema è di cambiare il mondo con l'operaio bianco, maschio, eterosessuale, è evidente che non è la percezione anche, diciamo, anche a livello di rivendicazioni e di chi può, diciamo, portare un cambiamento. Quindi secondo me il punto è, e questa è un po' la sfida che avremo anche nei prossimi anni, che secondo me non è per nulla scontato anche negli esiti, perché il punto è capire, diciamo, dove si può creare una nuova politica, cioè creare una nuova idea di politica che non coincida con l'idea di una politica appunto istituzionale fatta di delega o di rappresentanza diciamo delle istanze. E appunto, cioè, quindi anche lì sulla credibilità, diciamo, di un percorso che noi possiamo costruire. Io penso che, cioè, a questo punto non bisogna in questa fase stare a, diciamo, troppo a dover ragionare su quale proposta può essere più credibile, più efficace, perché siamo in una fase, penso anche al momento, diciamo, gli studenti lo dimostri, anche la, diciamo, il non aver ottenuto, diciamo, un risultato rispetto a un'indicazione che si era fatta, il fatto è che sia una fase in cui non ti concedono nulla. Cioè, nel senso, o si parte da questi elementi qua, oppure secondo me non ci rendiamo conto di con che cosa abbiamo a che fare e cosa dobbiamo fare noi. E quindi secondo me la questione anche già, nel senso di cominciare a capire come, e questo secondo me è anche il fatto dell'operaio, come, diciamo, delle indicazioni e dei percorsi si intrecciano con dei percorsi altri che si stanno dando. Si faceva riferimento alla Fiat, diciamo, ma ci sono tantissime altre pensi ai migranti, a quello che si sta facendo, provando a fare, diciamo, anche con delle difficoltà. Però o si pone il problema di come riusciamo a cioè la credibilità per me sta oggi nel costruire, diciamo, delle alleanze con gli altri soggetti che si stanno mobilitando, e questo è l'unico modo in cui noi possiamo veramente porre un problema credibile e porre anche un'idea di politica, perché se siamo qua semplicemente a doverci non dico qua fisicamente, dico in generale, se il problema del movimento LGBT è forse il problema di trovare, diciamo, delle istanze che possano forse essere accettate, non cogliamo, diciamo, quello che è l'elemento attuale, il fatto che non ti danno nulla, non ti concedono nulla, cioè soprattutto in questa fase anche di crisi e tutto il resto. Ma io volevo un po' rispondere a te rispetto al progetto politico, no? Tu dicevi, ma loro ce l'hanno un progetto politico. È vero, loro ce l'hanno un progetto politico, non è quello che si sono fatti loro, per carità, hanno un progetto politico che è quello di mantenere la società esattamente così com'è, con gli stessi rapporti di forza, ma di avere il loro spazio all'interno di questo esistente. È chiaro che noi non può essere un progetto politico esistente dentro al quale noi ci situiamo in questo momento, perché è da scoprire qual è e chi è che può essere oggi come oggi portatore, portatrice di un progetto politico di là da venire, ma un progetto politico che vada a in qualche maniera a minare il progetto politico su cui si poggia questa società, che è, come diceva Porpora, Dio, Patria e Famiglia, sostanzialmente, perché su questo è basato. Dopodiché, ovviamente, ci sono anche gay e lesbiche che possono rientrare in questo progetto politico se fai riferimento, e su questo poi c'è tanto da lavorare, comunque ha un concetto, fra l'altro neanche italiano, ma nord europeo, nord americano, quindi forse, però comunque esistono degli spazi dove, specialmente se tu sei di una certa classe sociale, sei bianco, eccetera, te lo puoi permettere, puoi stare molto meglio di un altro qualsiasi eterosessuale. È chiaro che il nostro progetto politico deve essere elaborato, secondo me, con quei gruppi sociali che sono perdenti, che fu poi la storia di Verona. Non è che da Verona sia nato chissà che progetto politico, però a me personalmente mi ha fatto sopravvivere dignitosamente, cosa che quel progetto politico mi avrebbe resa insoddisfatta della mia vita. Ero già insoddisfatta, io mi ero già dimessa dall'arcigay l'anno prima. Perché non mi diceva più niente, cioè io, il percorso mio era già finito nel momento in cui altre lesbiche erano diventate visibili, perché io quello mi ero proposta dentro quell'associazione, ma è stato un mio percorso di liberazione e ho capito una cosa, che una volta che io mi ero liberata su quella cosa, ero pronta a liberarmi su altro, e che io mi ero liberata per me stessa, non potevo liberare altre persone. Non potevo fare una proposta politica di liberazione ad altri, non accettavo la delega nei due sensi. Io non mi sentivo di rappresentare più quelle altre persone nel momento in cui io mi sono liberata, fin tanto che io vivevo l'invisibilità come lesbica, eccetera. È chiaro che potevo iniziare un percorso che in qualche maniera era un provare con altre a conquistare la possibilità di essere me stessa in questo mondo, ma io l'avevo conquistata a livello individuale. Dopodiché, allora, il mio problema era un altro. Cosa significa far politica? Per me doveva continuare ad essere, partire da me. Cioè, io non ero pronta e non volevo, non era nelle mie ipotesi di vita a quel punto diventare una rappresentante istituzionale delle lesbiche. L'hanno fatto altre, ma non era quel percorso, è stato un altro percorso che passava o dal quadro di partito, anzi, che è passato dall'essere quadro di partito, Ma quello non è essere movimento, quella è un'altra cosa. A me non ci sono lesbiche istituzionali che mi rappresentano, ma neanche se quella lesbica istituzionale fossi io. Cioè, non funziona così. Non funziona così l'autodeterminazione, non funziona così cambiare il mondo, non funziona fare dei programmi politici da offrire ad altri chiedendosi se, come fare perché il nostro programma politico possa essere più vendibile. Questo ragiona loro, ma questa non si chiama politica. Io questo l'ho capito bene nel 2000, cioè con il movimento No Global, continuo a definirlo così perché non ci si è mai accordati, comunque con quel tipo di riflessioni, cioè quando cominciai a ragionare sulla guerra, quando capii perché la guerra aveva sostituito la politica, quando capii che la guerra era l'eliminazione della parola, tu passi ai fatti, e la politica non è più politica, è passata soltanto ad essere economia, e questo a livello mondiale. Quindi non è che noi possiamo avere dei riferimenti politici, perché il mondo non si sta reggendo con la politica. La politica è una parola estremamente alta, di cui avere estremo rispetto. Non è questo Parlamento, non è questi che si chiamano politici, al massimo questi possiamo definirli amministratori. La politica è la capacità di gestire il conflitto senza violenza. La politica è la capacità di riflettere, di parlare assieme. La politica è composta non solo della parola verbale, è composta anche di questa parrucca, ma non è composta del fucile, non è composta degli urli di Luca Amato, non è composta del chiamare la polizia per farmi portare dentro, non è composta del non dare la parola, non è composta dell'avere un rappresentante, non è composta nell'avere un capo. Non è questa la politica. La politica possiamo trovarne 1500 forme, però passa innanzitutto dalla capacità relazionale. E questo dovrebbe anche insegnarcelo un pochettino il movimento femminista, che dà valore, anziché, cioè io ho capito che la mia vita, io, la mia identità passa dalle relazioni che ho. Cioè io presa di mio, messa dentro un muro, messa lì da sola, sono niente. La mia crescita personale, il mio passaggio dall'essere un agglomerato di cellule che funziona, che si riproduca o meno, è quello che per me ha senso nella vita, è proprio le relazioni che sono riuscita a stabilire, e questa è la cosa più alta della politica. È un mondo governato dalle relazioni, è un mondo governato davvero, ma non è il programma politico di un gruppo. Cioè quello che noi possiamo proporre, a mio parere, oggi è scoprire la relazione, cioè riscoprire il vero significato della politica. Cioè i momenti più alti che ha cambiato il secolo scorso non sono stati quelli dove c'erano capi, mica capi, eccetera. C'era gente che agiva, che si relazionava col corpo, che si relazionava con le parole, e noi oggi, questi due giorni, hanno un significato per questo. In più, se noi vogliamo ragionare dei nostri futuri alleati, perché io li vedo futuri, e vediamo i ragazzini di 16 anni scendere in piazza, che cosa? Io forse partì dalla mia età, quindi sono vecchiotta, non è che io posso scendere in piazza con i ragazzini e far finta di essere una ragazzina anch'io, sarebbe ridicolo. Io però credo che quello che noi possiamo fare per quei ragazzini gay, lesbiche, trans, non me ne frega nulla, non ho mai agito corporativamente per, o parlando a loro o parlando alla destra, eccetera, no, a me forse anche perché per quando io sono stata lesbica, per la mia generazione, non ho avuto figli, perché ora potenzialmente si vuole, ma comunque io mi rendo conto che per me i referenti veri è quello che verrà dopo di me, e questo non è vero da oggi, questo era vero anche quando avevo 30 anni, cioè di non di fare in modo che non debbano ripassare dalle stesse cose. Io avevo portato anche altre cose che però non ho tirato fuori prima, non tiro fuori neanche ora, vi faccio solo vedere perché credo che siano più sull'attuale. Ma uno che ho portato è questo, si intitola Mai Più, un librino sulla giornata della memoria, destra e sinistra. La destra è quella che ci ha messo questo bel triangolino rosa, quella è la destra. Quindi anche qui ce l'hanno rubata la parola, cioè se la sinistra è D'Alema, ok, ma D'Alema col suo Panfilo a me non ha mai convinto. Cioè la sinistra è chi si pone, ma non si pone chi è classe perdente. Non la definisco classe operaia, perdente, gli ultimi, quelli che grazie all'istruzione pubblica hanno potuto andare a scuola, se no io andavo a fare i ricami. Quella è la sinistra. Io per questo dico sono di sinistra e ne sono orgogliosa, ma non come riferimento a altro, come riferimento alla mia vita, che non è quella che sono stata qua a raccontare. Ma la mia vita è che io quando andavo a scuola, facevo le elementari, vivevo in un paesino dove c'era gente, non c'era la cartella per venire a scuola. Cioè dove di tutta la mia scuola elementare, ad aver fatto le superiori, saremmo stati in quattro, aver fatto l'università solo io, non manco finita. Quella è la sinistra, non chi è il Panfilo. Poi, tutto sommato, allora ci chiediamo perché la Lega raccoglie tutti questi voti. La Lega non è di sinistra, perché chi governa la Lega non è, o so io, cioè, ma io per dire, io come storia, come vissuto, chi governa la Lega, molto semplicemente, ora, è quel capitale, che la governa anche nei propri bisogni più intimi, che ti dà già la risposta. Noi dobbiamo rifiutarci di dare risposte. Noi non dobbiamo più telefonare a Grillini che ci faccia il comunicato stampa. Quantomeno Elena, io e qualche altro l'abbiamo capito nel 95. Però quella proposta è sempre pronta, che te la faccia Grillini, te la faccia Luca Matti, te la faccia chiunque. Noi non dobbiamo essere così. Noi non abbiamo la soluzione. E se l'avessimo, per conto d'altri, non andrebbe bene, non saremmo neanche più di sinistra. La soluzione oggi ce l'ha della gente che non manco conosciamo e ce l'ha le classi più basse di noi, ma non quello che è perché non legge, è quello perché non c'ha mai nessuno gli ha dato un libro in mano. Cioè parleremo in questi giorni anche del fenomeno che secondo, che a mio parere in questo momento è fondamentale, che è quello del razzismo, dove il razzismo non è siamo buoni perché stiamo con gli immigrati, come essere movimento avanzato per chi scese in piazza Verona nel 95 non è perché erano buoni perché stavano con i pinocchi e le lesbiche, sono quella parte di gente che, con cui poi fra l'altro nel bene e nel male delle varie traversie si sono mantenuti contatti, che con noi erano in piazza Bologna quando a me mi hanno arrestato, gente migrena e lesbica, ma che era in piazza in quel 95 a Verona, gente di Verona. Cioè che per fortuna mi ha riportato loro il camion, visto che ero dentro. E il camion, facciamo breccia, l'avevamo noleggiato a Verona, perché c'erano quei compagni del 95 che erano diventati compagni, che ci avevano prestato l'impianto. E allora, quello vorrei dire, sono queste relazioni che sono profondamente politiche. Non quella fra Bossi e Berlusconi, ma quelli sono affari del mercato. Le relazioni politiche sono quella cosa. E cioè, o noi riusciamo a prendere quel vissuto che ci ha narrato Porpora e farlo diventare patrimonio comune, quella è la nostra proposta politica. E dopo gli si dice, fate delle vostre vite quello che vi aggrada. E quando qualcuno non ve lo vorrà permettere, ribellatevi. Ma io non posso sapere chi non glielo potrà permettere, come dovranno ribellarsi, eccetera. E se ognuno di noi però, io lo so quale sarà la mia prossima battaglia, la dignità delle persone anziane, perché tra un po' sarò proprio anziana. E mi ribellerò se mi sentirò ancora una volta ricacciata negli ultimi degli ultimi perché non sono più produttiva. Mi ribellerò. E questo io posso fare. Tu ribellati dove ti senti calpestato. Quello è il tuo programma politico. Con la consapevolezza che se lo farai da solo non sarà una ribellione, sarà una donchisciottata. Se lo farai con altri e altri calpestati, sarà una ribellione, sarà un programma politico, sarà avere la capacità di guardare il futuro, sarà rendere reale quello slogan del 2000 che era quello un mondo migliore possibile. Cioè io, non è com'era, un altro mondo, vabbè io ve lo sono rifatta perché per me un altro c'è stato poi, peggiore, no? Ecco. Cioè, però, capito, o si ha anche questa capacità che hanno cercato di calpestarci, che è dell'utopia, quella manca. Cioè io negli anni 70, cavolo come eravamo utopici, cioè poter credere che ce la facevi, è quello che a me mi ha fatto pensare, cavolo, noi quello striscione novata lo stendiamo in piazza San Pietro, è possibile, basta immaginarlo. Certo se non te l'immagini non lo fai, far correre la propria fantasia, ma a partire dai propri desideri, e il tuo desiderio non può venire solo dalla testa. La testa ti serve anche dal culo, da, capito? Cioè dal tuo corpo, da quello che tu sei, anche dai desideri degli altri, se tu ci sei davvero in relazione con gli altri. Ma non è che allora tu li rappresenti, ne entri a far parte, e quindi quella cosa che calpesta quell'altro ti accorgi che sta calpestando anche te. Io in quest'altra cosa, che sono dei piccoli atti mai stampati, ma abbiamo fatto un librino che era una 3 giorni contro la repressione, che Facciamo Breccia ha organizzato il 10, 11, 12 ottobre 2008, con una pretesa che poi non si è stati capaci di mantenere, perché noi avevamo invitato il movimento, in realtà ci siamo trovati noi, e talvolta si ha questa impressione di dire ce la facciamo. 150 persone, no, però noi speravamo, però comunque, cioè, riuscire, ecco, mi sono persa perché mi hai. Però anche qua parlavamo della normalizzazione, nuove forme di disciplinamento dei corpi, e anche lì abbiamo cercato di ribangare questo, di ritirarlo fuori, di metterlo a disposizione. Oggi è un contesto diverso che io vedo molto favorevolmente, perché devono circuitare. Ma scusa, ci sono due interventi, la prima no. Sta arrivando e dobbiamo fare la cosa. Vai, hai fatto bene. Rossana è... Ma io non era un intervento, che no. Appunto, era un'osservazione, per questo l'avevo fatto a botto, no? In realtà ce ne sono ancora molte, però quando tu hai detto noi veniamo definiti antagonisti da una parte del movimento, che andava la parte del movimento lo definisce. In realtà parte del movimento che definisce antagonista un'altra parte, a volte definisce antagonista anche i miei, anche me, che francamente non riesco a capire in cosa, anche come percorso politico, posso avere l'antagonista, perché comunque faccio anche delle cose che poco antagoniste sono come associazione. E l'utilizzo improprio di una parola, esattamente con la stessa metodologia con cui Berlusconi utilizza la parola comunismo, intendendo che oggi usare la parola comunismo è privo di qualsiasi significato. Cioè usare una parola di quel tipo, che ormai storicamente attualmente non ha più significato, è analogo a come Imma può usare la parola antagonista. Cioè sono utilizzi di parole vuote, vuote oggi, non vuote rispetto al passato, che avevano un senso al passato ma non ce l'hanno nel momento in cui vengono utilizzate, semplicemente per tramutarle in offesa. Ma è analogo il sistema. Perché è analogo? Perché Imma o qualcuno, o un chiamato forse anche di Imma, è un seguace di Berlusconi? No. Ma perché per molte persone, anche parte del movimento, l'assoluta mancanza di senso di quello che si fa, di senso di ragionamento, non di senso perché si fanno cazzate, proprio di ragionamento politico, cioè di costruzione di un'idea rispetto a quello che si vuole raggiungere, fa sì che la battaglia, il confronto viene fatto ributtandogli addosso delle parole totalmente prive di senso, ma purché ti feriscano, purché ti separino o ti allontanino, da che ti rendano residuali, non so come dire, come qualcosa di antico e residuale. Perché secondo me la perdita di senso delle parole in generale che abbiamo in questa fase politica, per cui lui chiamato fotografa esattamente, anche in un contesto di discussione interno movimento, una metodologia diffusa e generale per cui non spara una cazzata. Abbiamo un Presidente della Repubblica che ne spara una al giorno, e anche se si ha la consapevolezza che è una cazzata, volevi dire del Consiglio, nessuno neanche più la sottolinea, cioè si dà per scontato che sia una cazzata, e quindi, lo dico nel senso comune, no? E quindi scivola via, ma come somma, come posso dire, come costruzione quotidiana di sabbia che deve sommergere tutto quello che invece cerca di costruire senso. Non so se mi sono spiegata. Per cui la situazione è culturalmente un tantinellino più complessa, per cui ha ragione Porpora quando dice quelle parti di movimento che creano questo tipo di confusione non possono più essere sottovalutate, né più nemmeno come noi nel nostro quotidiano sottovalutiamo le cazzate di Berlusconi. Non so come dire, perché la stessa metodologia. Berlusconi dice in televisione che lui è un perseguitato e noi ormai lo diamo di default, ma nessuno entra nel merito del fatto che quella è una stronzata. Magari ha senso rispetto a una logica politica, ma non ha senso rispetto alla parola utilizzata, no? E ne fa vittima. Nella stessa maniera, quando esistono nel movimento soggetti che, anziché una discussione la utilizzano parole vuote semplicemente per, ripeto, per spaccare, per, a prescindere che spesso nascono puramente da frustrazioni, perché non nascono da progetti politici, perché c'è una differenza tra Oliari e lui chiamato, nel senso che un Oliari ha una sua idea, per assurdo lui l'idea politica ce l'ha, la puoi non ritenere appartenente alla storia del movimento, come dice Corpora, ma un ragionamento culturale a cui aggrapparsi lui ce l'ha. Poi possiamo ritenere non è appartenente alla storia del movimento, ma c'è. Quando invece si crea un coordinamento Roma, Pride o si dà dell'antagonismo, non ce n'è alcuna. O si contesta il MIT, dice ma io qualcosa di concreto l'ho creato, qualcun altro no. Ma non è una contrapposizione tra te che hai creato qualcosa e qualcuno che ti dice che tu non l'hai creata, perché quello che ti dice che tu non l'hai creata non gliene frega niente di crearla. Cioè, non so come dire. Quindi quel tipo di paragone è fuori contesto. Il paragone sta nel dovergli dire tu hai detto una stronzata. Invece spesso capita il meccanismo che diamo per scontato che ormai le cazzate e le stronzate sono nel nostro vissuto quotidiano, perché anche a livelli giornalieri, quando accendiamo la televisione, sentiamo una marea di cazzate, e il vero difetto culturale che io almeno percepisco quotidianamente quando leggo è la perdita del buon senso, quello che 20-30 anni fa uno non si sarebbe permesso di dire in televisione, perché ci sarebbe stato un pernacchio collettivo di una nazione. È il perdita del senso, cioè il pernacchio della nazione non lo si sente più, perché la nazione è abituata a sentire cazzate, quindi una più, una meno. E la nazione siamo anche noi quando uno ti dà dell'antagonista, perché anziché reagire male all'antagonista uno dovrebbe dire scusa, perdonami, mi spieghi che vuoi dire? Siamo tutti zitti, parli solo tu, che vuoi dire? Perché sono antagonista? Di che? Fammi l'etimologia della... cioè, spingere la persona che dice una cazzata a spiegare la cazzata. Invece siamo abituati, vabbè, detto la cazzata. In questa somma di cazzate che ci avvolgono, sottovaluto il fatto che poi, ovviamente, poiché c'è una diffusa perdita di senso culturale generale, non solo nelle associazioni ma dappertutto, ovviamente cos'è che colpisce di più? Tu che costruisci senso o chi la spara più grossa? Ma chi la spara più grossa? Perché chiaramente chi la spara più grossa primo rientra nel cazzeggio generale e quindi è più di moda di te, perché se tutti cazzeggiano, lui cazzeggia, tu no, sei tu che sei strano. Secondo cosa, è chiaro che comunica di più la stronzata priva di senso che un ragionamento compiuto. Per cui do ragione a lei quando dice in fondo, questa non come analisi politica generale ma come percorso dei nostri scippi, l'essercelo fatto scippare per assurdo era un momento, come dire, necessario di non ritorno, cioè perché eravamo talmente tutti sommersi di cazzate che chi continuava a dare cazzate esce, costruisce adepti, comunica, e nella sottovalutazione del cazzaro noi non comunichiamo più. Per cui nel momento in cui si è creata una frattura si è data una consapevolezza più collettiva che il cazzeggio danneggia, non so se è chiaro quello che intendo, e che quindi già al cazzeggio bisognerebbe magari si chiama la cazzata, perché il cazzeggio ha qualcosa di divertente, alla cazzata si reagisce. Il problema però è che quel modo di dire cazzate ha purtroppo non solo, non ha soltanto, come dire, una malevolenza di chi la fa o una stupidità di chi la fa o l'interesse personale di qualcun altro, rientra in un meccanismo generale culturale di un paese che alla cazzata si è abituata, e questa è la cosa grave, altrimenti non bucherebbe, altrimenti non passerebbe, che sono nel nostro vissuto i blog dementi, per cui uno dice una cazzata e la cazzata vive di vita propria. Cioè, e questo è il vero problema, per cui comunicare a volte anche banalmente in termini di buonsenso può essere già una chiave per uscire da quel magma, perché il vero problema, Corpora e Graziella, è che il vero vuoto che c'è adesso è un vuoto di senso generalizzato oltre che di senso politico, oltre che di senso, scusate, verbale. Per cui il fatto che una volta non sarebbe stato possibile sentire certe cazzate, ma io sono sicura che, cioè, è come dire, è solo una faccia di uno specchio di un paese che 20 anni fa, di una classe politica che che noi abbiamo tanto bistrattato, che io invece comincio stranamente a rimpiangere, come quella della DC o di altri, in cui certe cazzate quel partito non le avrebbe sopportate, perché almeno un ragionamento, una pratica politica ce l'aveva. Invece adesso, dal 94 in poi, cioè fondamentalmente da Mani Pulite, cioè da quando Berlusconi è andato a riempire un vuoto politico in una fase critica di senso ed è andato a portare il cazzeggio e il consumo come unico concetto, è andato in realtà a perdere quel senso di società a cui la politica dovrebbe rispondere. Per questo non hai più un partito della sinistra, non ha più senso la sinistra e la destra, non ha più senso il consenso, non ha più senso niente. Ed è per questo che quei degli studenti reagiscono alla rabbia, ma poi vanno da Napolitano. Perché c'è una risposta alla rabbia, ma c'è la necessità di avere un interlocutore, che politicamente non c'è più. Che è l'unico rimasto, cioè, che, perché ti rimane il simbolo. Cioè Napolitano è il simbolo, non è la persona, è il simbolo. L'ultimo rimasto di una perdita di senso collettiva. Quindi non va sottovalutato, come Porpora dice, chi fa certi ragionamenti, ma non va nemmeno confuso con chi qualche idea di straccio anche di destra la vuole avere, perché per assurdo fa meno danni di chi ti dà dell'antagonista punto e basta, non so come dire, perché è molto più dannoso quell'atteggiamento, non quello di Oliari. Io aggiungerei una piccola cosa sulla l'equazione, no? Berlusconi usa comunismo, noi l'ho chiamato usa antagonismo. Perché se ci facciamo caso, oggi il termine comunista dice è sparito completamente come il concetto. Però non ci dimentichiamo che noi usiamo il termine sinistra, che però prima era comunista. Quindi in questo passaggio, in questa evoluzione ci dobbiamo vedere anche un po' il senso della sconfitta che poi c'è stata, quindi certo. Nel passaggio dei termini. Certo. Quindi il termine antagonista dato a noi è uno svilimento di quel percorso di liberazione. Io non lo vedo una parola data lì a caso, forse la talmente bagata di chi la usa senz'altro, però poi l'effetto reale di quello è uno svilimento di quel percorso, perché un tempo, 20 anni fa, io mi ci consideravo e dire antagonista era dire qualcosa di molto importante, però era dire qualcosa, nella... quell'uso non c'è, è dire nulla. Però capito, è anche il rischio, si nasconde anche dietro l'uso di quel termine. Una battuta Elena, una battuta Filippo e la pizza Samoscia. La battuta Elena è probabilmente una battuta. C'è un pericolo a tutto questo anche. Cioè quando vengono fatti, tu sei antagonista, tu sei questo, tu sei antagonista, ha un fine pratico preciso. Certo. Serve a criminalizzare una parte, a isolare. E a metterla in mano a volte alla polizia, a volte se sei in piazza, eccetera, e comunque a isolarlo politicamente, eccetera. Il fine della criminalizzazione è molto pericoloso e viene perseguito da alcuni esponenti di questa scena LGBT in maniera molto evidente. Che vuol dire, a Napoli sono state contestate, a mio parere anche piuttosto blandamente, insomma non è successo niente, la Concia e Mancuso, forse una persona in più ci sarebbe stata a contestarla, sarei stata io se non avessi voluto scappare per non essere ripresa a mezzo a una contestazione e essere usata in tribunale quella cosa. Cioè queste cose succedono, a me mi è toccato andare via di corsa per paura, e quando poi, peraltro dovrebbe essere a febbraio, avrei avuto il processo relativo a fatti di Bologna, non fosse usata di nuovo la mia presenza a quel momento per dire ecco la violenta, eccetera eccetera, che è stato comunque fatto nonostante non ci fossi, però vabbè, però non ha avuto un seguito, però non c'era una fotografia, quindi la criminalizzazione funziona nel senso perché le istituzioni poi la usano, il potere politico la usa, ma funziona anche perché ti fa stare a casa tua poi, perché alla fine non sei suicida. Io una cosa invece che volevo dire, una cosa che però dovremmo dire, esplicitare, è sulla destra, è che il loro percorso veramente non funziona. Cioè, il percorso di Grillini e il percorso che l'anno scorso, gli ultimi due anni, aveva ipotizzato la Concia, si sono chiusi miseramente. Secondo me dovremmo ogni tanto... No, stipendio un Parlamento e uno consiglio regionale, questo lo vuole fare. Ok, no, ma l'obiettivo, palesemente, quell'obiettivo, noi però ogni tanto lo dobbiamo esplicitare che quella roba là non funziona. Oltre a dircelo fra di noi, dobbiamo far passare all'interno delle persone GLBT che quella strada è una strada senza uscita. Fra l'altro chiudo, probabilmente molti di noi l'avranno letto, quella roba che scrive Gallino in cui probabilmente dal prossimo decennio, probabilmente, palesemente dal prossimo decennio capitalismo e democrazia non andranno d'accordo, è quello il centro della questione, al di là delle piccole beghe di movimento, è chiaramente quella roba là, quella strada è chiusa e noi lo dobbiamo dire, che se non diciamo questa roba non possiamo partire per dire che noi dobbiamo riempire quella roba.